Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a quest'ultimo appuntamento settimanale con il nostro appuntamento delle 14 con l'Europa. Oggi ripartiamo da Varsavia. Come sapete, Varsavia è la sede in queste giornate del vertice NATO. Naturalmente l'Alleanza Atlantica va ben oltre i confini dell'UE, ma come ha detto lo stesso presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, assolve una parte del compito di stabilità che Juncker appunto riconosce all'Unione Europea stessa. Juncker stamattina dice: viviamo in un mondo incerto, pieno di minacce, ma l'Unione Europea, gli Stati Uniti, la NATO sono i pilastri dell'ordine mondiale per assicurare pace e prosperità a noi e ai nostri vicini. E ha aggiunto il presidente appunto della Commissione, dice: siamo uniti nella difesa dello Stato di diritto e nella tutela dei diritti umani e della libertà. Stesso palco, quello appunto di Varsavia, parla anche il presidente polacco Andrzej Duda, che dice, a proposito di Regno Unito e uscita dall'Europa: se ci sarà la Brexit, provocherà senz'altro la più profonda crisi per l'Unione Europea, ma l'uscita della Gran Bretagna non dovrebbe causare invece alcun problema alla NATO, se non per lo scontento di scozzesi e irlandesi, cosa che può creare a sua volta conseguenze interne al Regno Unito. Insomma, a Varsavia si parla ovviamente di alleanze militari, in particolare rispetto alla Russia. È già stato fissato peraltro un incontro la prossima settimana per mantenere il dialogo con Mosca, e anche molti altri temi. Allora, Gerardo Pelosi ci fa il punto con questa corrispondenza. Un mondo pacifico e prospero era il sogno iniziale dell'Alleanza Atlantica, nata per difendere l'Occidente dai pericoli del blocco sovietico. Ma l'alleanza ha dovuto cambiare pelle dopo il crollo del muro di Berlino e l'11 settembre. Oggi, in un mondo fragile e insicuro, dominato dalla paura, dove la leadership americana vacilla sotto i colpi di uno scontro razziale senza precedenti, come testimoniano i fatti di Dallas, la NATO cerca di tornare alle origini, contenendo lo strapotere della Federazione Russa e dall'altro governare fenomeni come il terrorismo islamista, l'immigrazione nel Mediterraneo, la crisi siriana e quella afghana. A Varsavia oggi e domani i capi di Stato e di Governo dei 28 paesi NATO sono chiamati a dare risposte concrete a Polonia e ai paesi baltici, dispiegando nuovi contingenti alle frontiere con la Russia, pur mantenendo sempre aperto il dialogo con Mosca. Sarà questo l'ultimo summit NATO per il presidente americano Obama, che incontrerà oggi il premier inglese Cameron per la prima volta dopo il referendum su Brexit, e lo stesso presidente del Consiglio italiano Renzi. I partner europei dell'alleanza chiederanno a Obama rassicurazioni sulle prossime elezioni americane. Donald Trump, del resto, ha già detto che se verrà eletto deciderà un ripensamento della NATO. Le premesse quindi non sono affatto buone. Insomma, un mondo nuovo e pericoloso, quello che abbiamo di fronte, un mondo che i padri fondatori della NATO nel 49 non potevano neppure lontanamente immaginare, ma che impone a tutti necessariamente maggiore responsabilità e cooperazione. Gerardo Pelosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Varsavia. E ora torniamo invece a un classico tema interno di questi tempi, interno all'Unione Europea ovviamente, cioè quello dei bilanci. La Commissione Europea ha infatti giudicato Spagna e Portogallo responsabili di sforamenti sui parametri dei conti pubblici, rilevando l'assenza di azioni efficaci per gli anni 2014-2015. Per questo l'esecutivo comunitario procederà a stabilire nuovi termini per correggere i loro deficit eccessivi. La Spagna non è sulla buona strada per correggere il suo deficit eccessivo entro il 2016, mentre il Portogallo non l'ha corretto entro lo scorso anno. Penisola iberica sotto accusa a Bruxelles, dove la Commissione compie il primo passo per sanzionare Madrid e Lisbona. In case of Spain and Portugal, nel caso di Spagna e Portogallo vediamo che non sono state prese misure effettive, per cui lo sforzo strutturale non è in linea con la decisione del Consiglio, riassume il vicepresidente della Commissione Dombrovskis. Di qui la decisione di Bruxelles inviare il dossier all'Ecofin, raccomandando di procedere. Se i ministri finanziari daranno il via libera, a quel punto la Commissione avrà 3 settimane per presentare la sua proposta. E qui lo stesso Dombrovskis riduce ampiamente la possibile portata della punizione. Se anche l'Ecofin decidesse di optare per le sanzioni, un'eventuale multa verrà probabilmente ridotta a zero. Dombrovskis motiva così il possibile epilogo: le sanzioni devono tenere conto che siamo nel dopo crisi economica di due paesi che sono stati sotto programmi, quindi anche degli sforzi già fatti e apprezzati. Lo scorso anno il deficit spagnolo superava il 5% del PIL, quello quello portoghese il 4 e la Spagna in particolare si trova in un delicato periodo politico con un secondo round elettorale che non ha sbloccato l'impasse al governo. Il vincitore delle elezioni, il popolare Rajoy, si è già impegnato a mettere in atto aggiustamenti strutturali. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo per la cronaca europea. Naturalmente adesso ci occupiamo di europei, di calcio, dunque verso la finale che vi ricordo racconteremo qui in diretta con i nostri conduttori naturalmente domenica sera. Dunque la linea a tutti i convocati, un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.